Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento insieme all'Adico, ritroviamo con noi Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, un saluto agli ascoltatori. Allora Gianluca, ricordiamo che l'Associazione Difesa Consumatori è sempre attenta a un mucchio di problematiche che capitano quotidianamente, come per esempio una vicenda che adesso ci racconterai, accaduta in un autobus. Sì, abbiamo già in altre occasioni avuto modo di parlare di quello che può succedere in qualsiasi posto, diciamo, d'Italia con i mezzi di trasporto, ovvero la possibilità che all'interno del mezzo di trasporto, in questo caso noi a Venezia abbiamo sia il vaporetto che gli autobus, comunque parliamo degli autobus, possono succedere degli incidenti, delle cadute, il passeggero si possa far male. È capitato più volte che siamo andati a chiedere il risarcimento all'azienda di trasporto proprio perché abbiamo individuato una colpa o del guidatore, solitamente appunto del guidatore, comunque una colpa non attribuibile al passeggero che si è fatto male. Ebbene, qualche tempo fa abbiamo chiesto appunto un risarcimento ad ACTV, che è l'azienda di trasporto veneziana, per la caduta di un anziano di 86 anni, un ex gondoliere, all'interno di un autobus della linea 11 del Lido di Venezia. Questo signore era appena entrato in autobus, il conducente è partito a razzo, cosa che succede spesso al Lido per motivi di orari molto stringenti, e il signore di 86 anni era appena, ripeto, salito, si erano appena chiuse le porte dell'autobus, è caduto, si è fatto molto male, si è fratturato una costola e ha avuto un trauma cranico. Nei giorni successivi abbiamo anche con l'aiuto dei residenti del Lido acceso una polemica proprio per il fatto che gli autobus al Lido sono un pericolo, effettivamente, perché corrono molto veloci. Tra l'altro il sindacato nei giorni successivi ha ammesso di dover correre molto perché gli orari sono molto stringenti. Arrivo al dunque, insomma, qualche giorno fa dall'assicurazione di ACTV è arrivata una risposta negativa e alla richiesta di risarcimento, e diciamo che la motivazione, Francesco, è da considerare risibile, perché sì, praticamente ACTV accusa l'anziano di non essersi tenuto bene agli appositi sostegni. E stiamo parlando di una persona di 86 anni, una persona comunque sveglia e comunque una persona anche abituata ad andare nei mezzi pubblici, quindi non un neofita dell'autobus, e che è caduto, ma non perché non si reggeva agli appositi sostegni, ma semplicemente perché c'è stata una brusca partenza da parte del conducente. Devo dire che la risposta ci ha lasciato davvero stupiti. L'abbiamo anche raccontata un po' con i nostri mezzi e abbiamo ricevuto molto sostegno da parte di molti residenti del Lido, che, ripeto, il Lido di Venezia, che, ripeto, sostengono che gli autobus corrono eccessivamente veloce. Ecco, la questione chiaramente, questa è molto clamorosa, perché stiamo parlando, ripeto, di una persona di 86 anni e di una colpa palese del conducente che l'ha anche ammessa, però apre un po' la questione appunto delle assicurazioni e del fatto che, questo lo sappiamo tutti, in molte occasioni, ecco, l'assicurazione, che ormai abbiamo tutti per diversi motivi, cerca di negarsi il risarcimento, a volte anche con motivazioni assurde come questa. Noi chiaramente in questo caso andiamo avanti, anche perché in altre occasioni abbiamo comunque ottenuto dei risarcimenti per delle cadute sempre nei mezzi della CTV, quindi dell'azienda di trasporto pubblico veneziano. Noi proseguiremo, anche perché appunto il sindacato stesso ha ammesso che gli autobus al Lido corrono molto. Resta però una questione aperta, cioè il fatto che rammarichi dover andare avanti a combattere, a lottare per una questione che pare davvero avere dei risvolti molto molto chiari, e per i quali, insomma, non dovrebbero prevedersi grandi discussioni. Sì, non dovremmo esserne qui a parlare, insomma, perché ricordiamo, poi la CTV avrà anche una compagnia assicurativa. Allora, diciamolo chiaramente che la CTV ha come compagnia assicurativa Unipol, è stata Unipol, quindi tramite una perizia evidentemente, sì, una perizia di parte, ma non molto approfondita, è stata appunto Unipol a negare attualmente la richiesta di risarcimento. Dobbiamo dire che quando andiamo a chiedere un risarcimento all'azienda, succede, ripeto, più di qualche volta, e di solito sono state valutate anche positivamente alcune nostre richieste di risarcimento. Siamo rimasti molto stupiti da questo atteggiamento che riteniamo proprio di chiusura totale in una situazione davvero molto chiara. Per cui attendiamo che a questo punto veramente per ottenere un giusto risarcimento, in questo caso da CTV, però ripeto Francesco, purtroppo abbiamo molti casi di persone che si rivolgono a noi stupite perché l'assicurazione gli ha negato un palese risarcimento, magari con motivazioni di ogni tipo. Comunque ecco, temiamo che ci sia una chiusura da questo punto di vista, mentre noi a suo tempo abbiamo chiesto per la CTV, ma siamo pronti a chiederlo anche per altre aziende, l'apertura di un tavolo nel quale appunto si possa discutere ampiamente di ogni situazione in cui appunto un passeggero ha subito un incidente e in cui appunto si vada a chiedere un risarcimento. Per noi è molto importante questo dialogo, perché diciamo che molte volte l'utenza, il cittadino, si sente appunto bistrattato e sente appunto che i suoi diritti non vengono tutelati. In questo caso, visto che comunque la gente paga per avere questo tipo di servizio, è anche giusto riconoscere quando ci sono degli errori appunto da parte dell'azienda, da parte del conducente, certo, e andare anche a risarcire, insomma. Certamente, vabbè, allora ricordiamo che l'Associazione Difesa Consumatori serve proprio anche a questo, aiutare il cittadino a trovare un giusto accordo tra le parti qualora da una parte non ci siano risposte positive. www.associazionedifesaconsumatori.it, il sito dell'Adico. Grazie a te Gianluca, ci risentiamo tra qualche giorno. Grazie a te Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.